non credo neanche in Dio, non posso credere in me e neanche un po' in te. Oh, e allora come faccio? Io, proprio io. E allora dimmelo te, qual è la cosa giusta che adesso io faccio per non sfigurare con te? E allora cosa io dico a te, a me? Siamo seduti qua, in questo bar, la cosa saggia sarebbe che io ti offrissi da bere, a meno che non pensi che. Oppure dovrei alzarmi e dirti dai balliamo, oppure dovrei baciarti senza nemmeno pensarci un po', nemmeno un po'. Ma non lo so, io non lo so. Ma come faccio a dirti ti amo, a dirti voglio stare con te, se non riesco nemmeno a finire un discorso che parla di te? Anzi riesco solo a dirti vado a prendere un caffè, lascio lì bella come sei, e ti lascio lì con il mondo lì. E adesso io che me ne faccio di questo caffè? La cosa adesso semplice sarebbe che, sarebbe proprio che tu venissi da me, perché io sono immobile, non mi so muovere, per evitare che io faccio la figura che sia inadeguato, ti sei alzata te. Ma guarda un po', io lo speravo, supplicavo, ti avvicini a me, mi dici che arrivati a questo punto posa il caffè e vieni via con me, solo con me, tutto per me. Mi lascio trasportare, non so che fare, tanto ormai il mondo va alla rovescia, l'iniziativa è capovolta, non è come una volta. Ma come fai a dirmi ti amo, a dirmi voglio stare con te, se non riesco nemmeno a finirti un discorso che parla di te? Solo a dirti che sta per piovere, e ti lascio lì a bagnarti così, e mi guardi e ridi, allora mi copri tu, e sì adesso ci vorrebbe quel bel caldo caffè. Thank you.